Euroreportage. L'incredibile viaggio di Rosetta di Gigi Donelli. Se non fosse assolutamente vero, questa storia potrebbe benissimo essere stata il frutto della straordinaria fantasia tecnologica di Jules Verne. La grande avventura di Rosetta nello spazio interplanetario, che in questi giorni ha vissuto un momento fondamentale, ci viene raccontata da chi sta lavorando, da molti anni sentirete, a questo formidabile progetto di inseguimento della cometa. Enrico Flamini, coordinatore scientifico dell'ASI ed ex responsabile del programma italiano per Rosetta, e Andrea Comazzo, che è il responsabile operativo, responsabile delle operazioni di Rosetta dal centro di controllo dell'ESA di Darmstadt, in Germania. Rosetta per ora ha volato nella parte più lontana dal Sole della sua orbita di avvicinamento alla cometa. Era talmente lontana dal Sole per cui i pannelli solari non erano in grado di generare abbastanza potenza per stare attiva, quindi abbiamo dovuto configurarla in un modo chiamato di ibernazione, dove abbiamo ridotto in maniera drastica il consumo di potenza elettrica. Adesso in questi giorni la stiamo riattivando per poi avvicinarci alla cometa. Ecco, quando dice ridotto il consumo elettrico, ci può fare un esempio? Cioè, Rosetta quanto consumava nella fase di ibernazione? Durante la fase di ibernazione abbiamo ridotto il consumo di potenza elettrica sotto i 400 watt, intorno ai 370-380. Normalmente il satellite, per essere tenuto in funzione in maniera nominale, richiede poco più di 600 watt e quando accendiamo gli strumenti raggiunge gli 800-900 watt. 300 e rotti watt che cosa significano in consumo terrestre? Ah, esattamente lo stesso numero, come avere tre lampadine da 100 watt accese. Queste sono sufficienti per tenere accesi tutti i computer di Rosetta e tutte le resistenze elettriche che servono a mantenerla calda, tenere accesa la radio di bordo di Rosetta, che in ricezione è sempre attiva, non possiamo spegnerla. E questo consumo elettrico viene utilizzato per tenere queste unità elettroniche in funzione. Quindi tre lampadine da casa è il minimo che si può pretendere, perché chiaramente se si spegne tutto non c'è più modo di riaccenderlo, giusto? Assolutamente, esattamente. Noi abbiamo due problemi fondamentali. Uno, non dobbiamo danneggiare gli strumenti di bordo di Rosetta, quindi non possono andare a temperature tipicamente sotto i meno 20, meno 30 gradi, quindi abbiamo bisogno di resistenze elettriche per tenerli al di sopra di queste temperature e soprattutto non dobbiamo far congelare il propellente. Se va intorno ai 0 gradi il propellente usato da Rosetta si congela, quindi non dobbiamo assolutamente rischiare questo. Tutto questo per poi poterle mandare, come è accaduto dunque in queste giornate, un segnale che attiva un meccanismo di risveglio. Quindi innanzitutto, voglio dire, diciamolo pure, per voi questa fase del risveglio è un momento da panico, io sarei nel panico a dire. Assolutamente, è una fase che avremmo voluto evitare a tutti i costi. Purtroppo volare a quelle distanze dal sole con pannelli solari è impossibile, avremmo dovuto fare dei pannelli solari talmente grossi che non saremmo stati in grado di lanciare, quindi non abbiamo avuto scelta, avessimo potuto evitarlo l'avremmo fatto volentieri. L'ibernazione in realtà è automatica su Rosetta, Rosetta sa l'ora, diciamo, in quei termini equivalenti nostri, e sa quando si deve svegliare, quindi questa attivazione è automatica, noi aspettiamo il segnale in ricezione. Sono qui, buongiorno, alle 19:17 di lunedì 20 gennaio, solo 13 minuti prima della fine della finestra di ricezione. La sonda europea Rosetta, a 800 milioni di chilometri di distanza dalla Terra, ha annunciato che si è risvegliata e sta bene. Ora, prima di sentire dai nostri ospiti qual è il ruolo internazionale della cooperazione di un progetto che naturalmente è molto costoso e che è un punto di riferimento nella politica europea dello spazio, voglio darvi alcuni numeri. Dovete infatti sapere che i progetti europei nello spazio sono molteplici. Darmstadt in Germania è una sorta di capitale, centro di controllo, insomma da lì infatti si controllano le missioni. Ma è bene ricordare che sono due essenzialmente i progetti principali: da una parte Galileo, un programma faro dell'Unione, primo sistema mondiale di navigazione satellitare concepito a fini civili, e poi c'è EGNOS, il primo grande passo dell'Unione Europea in materia di navigazione satellitare. Un grande progetto, grandi costi anche. Il mercato delle applicazioni basate sulla geolocalizzazione è in fortissima crescita. Si parla di un volume d'affari annuo di circa 240 miliardi di euro nel 2020. Peraltro nei prossimi 20 anni, grazie ai vantaggi offerti rispetto ai sistemi concorrenti, Galileo ed EGNOS dovrebbero generare benefici economici e sociali quantificabili tra i 60 e i 90 miliardi di euro. Ecco, questa è anche una delle ragioni per cui lo spazio interessa così tanto la Commissione europea e questo tema è così tanto legato alla ripresa industriale. Ma adesso sentiamo da Enrico Flamini allora perché è così importante questa cooperazione. Poi torniamo nello spazio con Rosetta e con il racconto di Andrea Comazzo. Intanto cominciamo a dire che dai tempi di Enrico Fermi si è dimostrato che un team scientifico devono lavorare insieme fisici, ingegneri e a un certo punto l'industria è parte integrante della scienza stessa, così come lo sono, diciamo, le agenzie spaziali e i manager della scienza anche in generale. Non si possono disaccoppiare i vari pezzi. Nel caso specifico significa aver elaborato, realizzato, costruito e provato una serie di tecnologie assolutamente d'avanguardia che poi possono avere e quasi sicuramente avranno, in qualche caso già l'hanno in qualche forma, una ricaduta anche per la nostra vita quotidiana. Ad esempio, la gestione di un sistema completamente automatico che riduce al minimo per poter operare le necessità di energia, controllandole in una maniera assolutamente puntuale secondo per secondo, sono qualcosa che al momento, con le problematiche energetiche che abbiamo al mondo, può diventare un qualcosa di molto importante. Rosetta è su un'orbita che si sta avvicinando al Sole, quindi sta anche avvicinandosi alla Terra. Sta tornando, perché adesso la cometa deve raggiungere dov'è rispetto a lei? Non è lontanissima da Rosetta, siamo a circa 9 milioni di chilometri dalla sonda, dalla cometa, mentre la Terra è a 800 milioni di chilometri di distanza, il Sole a circa 670, ci stiamo praticamente avvicinando all'orbita della cometa. Il problema è che abbiamo ancora una velocità diversa da quella della cometa e nei mesi a venire cercheremo di cambiare la velocità del satellite della sonda Rosetta in modo che equivalga esattamente a quella della cometa per metterci su un'orbita intorno al Sole uguale a quella della cometa. A quel punto avremo raggiunto la cometa. Questo sarà completato ai primi di agosto. E come si accelera un oggetto a quella distanza? Sì, abbiamo a bordo dei piccoli motori, molto piccoli, sono soltanto da 10 newton di forza ciascuno. Quando facciamo queste manovre ne operiamo 4 simultaneamente, che sono 40 newton, è una forza equivalente di 4 kg che spinge questo satellite che pesa più di 2 tonnellate. Queste accelerazioni sono significative e dobbiamo quindi sparare i motori per diverse ore. Le nostre manovre iniziali di avvicinamento alla cometa durano dalle 6, 7, 8 ore. Di sparo continuo dei motori di bordo. Enrico Flamini, coordinatore scientifico dell'ASI, e Andrea Accomazzi, responsabile dell'operazione Rosetta per l'ESA. Ora cosa sperate che accada? Che riusciamo ad atterrare in primis e che la cometa sia tranquilla a sufficienza da non spararci via violentemente, perché le comete sono dei bambini molto capricciosi e quando si avvicinano al Sole possono, e non sappiamo come, è uno dei motivi per cui facciamo questa missione, iniziare a mandare gas fuori. Quindi la mia speranza è che la cometa sia tranquilla a sufficienza, che ci consenta di atterrare e che ci consenta di utilizzare il trapano e prelevare i campioni da sotto e quindi finalmente forse capire se ad esempio l'acqua dei nostri oceani è di origine cometaria o meno. Vogliamo avvicinarci e ad atterrare prima che sia troppo attiva per avvicinarci. Il nucleo della cometa è sicuramente solido, infatti immagino di materiali rocciosi, neve, ghiaccio, queste cose qua. Quello che noi vediamo intorno è quello che chiamiamo coma, ovvero questa pseudo atmosfera che si forma intorno alla cometa per il rilascio dei gas che man mano la cometa si avvicina al Sole sono causati dalla sublimazione delle sostanze, dall'evaporazione delle sostanze che ci sono sul suolo. Perché vi interessa tanto la cometa? Ma le comete sono i primi corpi che si sono formati nel nostro sistema solare. All'inizio erano un insieme di polveri, di gas, e queste polveri e gas hanno cominciato ad agglomerarsi e hanno formato questi corpi primordiali del sistema solare, come le comete, gli asteroidi, i quali poi hanno dato origine ai pianeti. Quindi permetteranno ai nostri scienziati di capire meglio, di esplorare maggiormente l'origine del sistema solare. Si pensa anche che le comete contengano acqua in forma di stato solido, quindi di ghiaccio, e possano anche essere l'origine dell'acqua sulla Terra, quindi potrebbero essere stati anche il veicolo che ha portato l'acqua e in fondo poi la vita sulla Terra. Io lavoro su questo progetto da 17 anni, ci ho dedicato gran parte della mia vita professionale e in parte anche privata adesso, e non vedo l'ora di arrivare alla cometa. Sarà un successo clamoroso, nessuno ha mai fatto una cosa del genere, non è mai stato usato, è una delle missioni spaziali più fantastiche che siano mai state concepite, e non vedo l'ora ovviamente di metterla in pratica, di metterla in opera. Euro Reportage, in collaborazione con Euronet Plus.